arrivano le donnette che sono sempre perfette, si attaccano ad un uomo come fossero cagnette, non hanno un'intenzione, non hanno un interesse, sono spesse e volentieri bulimiche e represse. Ma che liberazione, ma che rivoluzione, ballerine di fila che aspetta l'audizione, il sesso imprigionato dal libero mercato, ogni corpo un'attacca e via misurare. È primavera. Ma insomma, ragazzette, dammi un po' da fascia, avemo culo e tette, e testa per pensare. Per voler, aspetta, vedi la pezza, ecco qua. Testa per pensare, scusate, che pure lì difetti sono da valorizzare, altro che quelle della pubblicità. Ci piace fa l'amore, è puro de magnà, altro che chiesa, marito e santità. Volemo una vita de curiosità, e questa è la strada. Para que no se nos olvide de dónde venimos. Más avanzada de la historia humana, basada en tradiciones caducadas. Da la medicina la medida universal para mis decisiones. Diagnosticar la civilización más avanzada de la historia humana. Actos migratorios humillantes avala pa' que nuestra gente afuera sea explotada y transnacionales en la tierra no dejan nada. La civilización más avanzada de la historia humana promueve el coyoterismo y la trata. Para que mi pública se distraiga. ¿Te parece indigno y repulsivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Te parece absurdo y agresivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Y si una mujer interrumpe un embarazo no deseado? Al la moral le resulta insano. La santa moral que aporta monjas en el Vaticano. Machismo y sexismo, incesto y pederastia. En las iglesias perversiones tan batracias. Curas que el domingo promulgan buenos actos, sodomizan niños y quedan intactos. Embarazan monjas, las culpan, las castigan. Ellos son ejemplo, no hay quien contradiga. El diezmo paga la santidad que nos huevea. Compran el silencio pa' que no haya huelgas. Niños que no serán santos ni normales. Todo pa' que a ti no se te olviden los modales. ¿Te parece indigno y repulsivo? Inmerso en esa mierda vivimos. ¿Te parece absurdo y agresivo? Inmerso en esa mierda. Expertos puritanos ejemplares dicen que pa' Dios somos despreciables. Sus maldades. ¿Quién le preguntó a la curandera, la santera? ¿Dónde está la Pachamama? Las abuelas. La sabiduría de esta madre tierra dice que la decisión solo es nuestra. Que hablen los de siempre y den sus opiniones. Igual las mujeres tomamos decisiones. Creyentes o paganas, ricas, pobres o avispadas. Decidimos, lo hacemos, que estemos asustadas. Abortamos en la angustia del prejuicio. Todos emiten sus juicios. Todos hablan, ellas mueren. Pero hoy ya nada nos detiene. 098-30-13-17. Aborto seguro, salud mujer. Te saca de apuros. Sabemos que la decisión es dura. Mujer, haz lo que mantenga recta tu cordura. Machismo y sexismo, incesto y pederastia. En las iglesias perversiones tan batracias. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que nos han metido en la cabeza? ¿Qué te parece? ¿Te parece indigno y repulsivo? ¿Absurdo y agresivo? ¿Normal el racismo? ¿Sin control el consumismo? ¿Válido el clasismo? ¿Tu sexismo y tu cinismo? Un mundo vacío, todo se convierte en vicio. ¿Imposible el espiritualismo? inmerso en esa mierda vivimos. Pero qué, pero qué. 098-30-13-17, aborto seguro. 098-30-13-17. Para mí, la posibilidad de discutir con la resistencia europea, encontrarme también, porque en Ecuador ha habido mucha opresión desde la colonia, entonces yo siento una cercanía con la resistencia de aquí. No, sì, che lei sta in Ecuador, cioè sente vicino alla resistenza di, che facciamo qua con la resistenza che c'è in Ecuador. Y bueno, así voy a hacer mi primer tema, que se llama Hablando la Plena. E fa il suo primo pezzo, che si chiama... Sì, ora, Hablando. Parlando, che significa, si dice Hablando la Plena, ma significa, in italiano si può tradurre dicendolo tutto? Perché la riflessione de la resistencia del margen, de la marginalidad, tiene el poder para destruir el sistema. Perché tutta la riflessione che c'è intorno alla resistenza, intorno ai soggetti che prendono dal margine. Prova. Prova. Vaffanculo il sistema. Questa è la resistenza. In diretta. Si sente? Ok, quindi ricomincio da capo. Ricomincio da capo. Ok, allora. La scelta del 25 novembre viene fatta a Bogotà nell'80 per rendere omaggio alle sorelle Mirabal brutalmente assassinate nel 25 novembre del 60 per ordine del dittatore Trujillo. Le sorelle Mirabal nacquero a Ojo, nella Repubblica Dominicana, da una famiglia benestante. Erano quattro, Patria, Maria Teresa, Minerva e Belgica Adele, vivente. Vissero la loro gioventù negli anni della dittatura trujillista, però loro si ribellarono per impegnandosi con decisione nei confronti della lotta contro il governo trujillista. La ribellione e l'impegno di queste tre giovani donne di fronte all'atrocità del regime prende via con la costituzione del 60 del movimento 14 giugno sotto la direzione di Manolo Travares, giusto, dove usarono come nome in codice las mariposas, le farfalle. Furono un gruppo politico clandestino che si espanse per tutto il paese e venne strutturato attraverso nuclei i quali combatterono contro la dittatura. Sia le sorelle Mirabal che i loro mariti. Un giorno le sorelle però vennero liberate. Mesi dopo, però i loro mariti stavano ancora in carcere, quindi un giorno andarono a trovare i loro mariti e purtroppo gli fecero un'imboscata. Gli agenti del servizio segreto militare. Furono portate in una piantagione di canna di zucchero, vennero massacrate, bastonate e strangolate. I loro corpi poi dopo vennero poi rimessi nel veicolo sulla quale stavano viaggiando e venne fatto precipitare per un dirupo per simulare un incidente. L'assassinio provocò una grande commozione per tutto il paese e la dittatura di Trujillo finì l'anno dopo con l'assassinio del dittatore. La sorella sopravvissuta, Belgica Adele, ha dedicato la sua vita alla cura dei suoi, dei loro figli e nel marzo del 99 ha pubblicato un libro Vivas in su Jardin, sopravvissi per raccontare la loro vita. Ve lo consigliamo. Leggelo. Mujeres, un abrazo a tutte le donne, mujeres guerreras. Seguimos un poquito y bueno, lo que se viene es una canción dedicada a las mujeres lesbianas en el Ecuador. A las mujeres se les encierra, o sea, en el Ecuador existen clínicas donde encierran a las mujeres lesbianas para corregirles. Que esta canción es dedicada a le donne che sono chiuse nelle cliniche. Ah, vale, perché in Ecuador, questo è quello che racconta, alcune donne vengono chiuse in delle cliniche evidentemente per correggerle solo perché sono lesbiche, e per questo questa canzone la vuole dedicare a loro. Para todas las mujeres lesbianas. Questa è la dedica che fa Calle Callejera alle lesbiche dell'Ecuador, è puro stereotipo. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje, al patriarcado que se baraje. Ya no interesa ni mi intelecto, solo importa el meneo correcto que te provoque y te ponga erecto. Ay, siento que todo lo hago por amor, que tengo tatuado en la cara que soy un primor. Mujer pasiva, complaciente de tu humor, no importan mis placeres mientras quieras un acostón. Tradición y norma que tapona los oídos, sigues la corriente, te metes en líos. Tratas de salvarte, aplicas tus prejuicios, perpetuando y acentuando el androcentrismo. No son absolutos men, no soy solo una mujer, no. Como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera, quitando barreras. Vengo a proponerte un encuentro, siento lo que vives, vengo a contarte un secreto. La moral social que controla tu cuerpo es artificial, vamos a hacer lo correcto. Puedes rechazarme o perpetuarlo, no indagar tus sentimientos, solamente actuarlo. Ser funcional a un sistema macabro, seguir el mandato, nunca cuestionarlo. Ellos nos han dicho incluso cómo amar. Los estereotipos que debes desear. Quiero ser más que un ser banal. Decidir por mi propia realidad. No son absolutos men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos, domesticados. La esencia sin esquemas, callejera, la guerrera quitando barreras. Ya no tengo miedo, ahora voy de frente. Mi intención es que no puedas defenderte. Ni tu fuerza ni poder podrán detenerme. A ti machito habitual vengo a humillarte. Ya no me importa tu egoísmo, querido pequeño pingüino. Genio opresor oprimido, machista sin ningún sentido. Deja la falsa moral, sal del discurso oficial. Resistencia anticapital, feminismo antipatriarcal. Esta rima es como una organización social. Acción política radical, creatividad brutal. Ya ves, no me quedé sin hacer nada. Hoy vengo a decirte en la cara que me vale un trozo de verga el patriarcado que te sostenga. No son absolutos men. No, no soy solo una mujer. No, como robot de movimientos limitados, controlados, torpes, tímidos. Cerchiamo di definire che cos'è il femminicidio. Il femminicidio è l'oppressione, la vessazione, l'omicidio verso una donna che si ribella al ruolo di genere che la società le impone. Alla base della violenza c'è dunque una società patriarcale che perpetra rapporti sessisti all'interno dei quali il corpo della donna è ridotto ad un oggetto commerciale e sessuale, dove il ruolo rimane quello di soddisfare l'uomo, dove la sua immagine è quella del genere subalterno. Il dominio dell'uomo, la sua possessività sono ovvi presupposti della cultura sessista in cui viviamo. Quando la donna si rifiuta di sottomettersi a questi rapporti diviene vittima di femminicidio. E comunque questa considerazione della donna, no? La possiamo vedere quando le istituzioni appunto scendono in campo a difesa della donna, ma in realtà non difendono difendono il ruolo di una donna vittima, di una donna fragile, debole, che va difesa. Questo viene fatto, questo ci arriva dalle campagne istituzionali, che comunque, sì, ripeto, che vede il ruolo di una donna debole, fragile, che appunto è incapace di autodeterminarsi. E il fatto, presumibilmente anche, no, la parola femminicidio è stata coniata proprio riguardo... appunto, no, va a prendere in considerazione quello che è il rapporto di genere, nel senso non è il semplice omicidio di una donna, è una violenza basata su appunto un omicidio basato su la percezione della donna come un essere inferiore di fatto, no? E che è, appunto, come diceva Valeria, è un modello che viene continuamente riproposto, tant'è vero che anche la campagna, quella della giornata del 25, è diventata poi di fatto a livello istituzionale soltanto un modo per riproporre questo stereotipo. Addirittura qui sul territorio dei Castelli si chiamava Mai più soli, che è invece in realtà quello che noi riteniamo un controsenso incredibile, no? Appunto ripropone, affronta la questione del femminicidio come semplice... appunto, no, dipinge l'uomo cattivo che sporadicamente, invece è una questione culturale, è una questione culturale. E qui sul territorio, appunto, ad Albano hanno fatto una cosa che secondo me è veramente vergognosa, nel senso che hanno proposto l'emblema delle scarpe rosse, hanno riempito questi paesi di scarpe rosse, perché le scarpe appunto poi di solito col tac e quant'altro sono simbolo di femminilità e il rosso è il colore del sangue, cioè per cui proprio è riproporre soltanto questo stereotipo che poi è la causa di fatto, no? La donna fragile, la donna debole, l'uomo che protegge la donna, l'uomo che è possessivo con la donna, l'uomo virile, no? Spesso anche tra l'altro io ho riflettuto sul fatto che proprio l'uomo che ha problemi di virilità, no? Con la sua virilità, che poi in realtà appunto cerca di esprimerla attraverso la violenza di genere, cioè attraverso il machismo, attraverso la superiorità corporale, no? E questo è appunto soltanto poi l'ultimo atto di un rapporto di spesso che si definisce poi a prima si crede d'amore e in realtà è soltanto una dominazione sessista di quella che è la donna, no? Dell'oggetto in questione. Spesso appunto succede proprio quando la donna rifiuta il suo ruolo di subalterna, di soprattutto ecco di oggetto, di essere posseduta in qualche modo dall'uomo. E se non si mette in discussione il fattore culturale e se non si spinge invece a credere che il risultato di una campagna sul femminicidio deve essere l'esatto opposto, ossia una donna forte, autodeterminata appunto, che riesce invece che aspira all'indipendenza, questo fenomeno non si fermerà. Insomma, se continuiamo con le scarpette rosse e le mai più sole, poi di fatto non avrà mai un riscontro una campagna del genere. Que corregirle hasta que le guste fue violada, masacrada, sale desarmada a cumplir su venganza contra el sistema que encierra cuerpos que no encajan en la palabra, categoría, rajatabla, sistemático el encierro, tortura tiene precio, familiares que pagan por lesbianas sienten desprecio, uy, adentro, amanecía, baldazo de agua fría, a toda hora la pastilla, acoso sexual, la pesadilla, en oscura se acumplía, lo demás, ya te imaginas. Sacar la máscara que oculta tu debilidad, la ansiedad con la que finges fortaleza, autoridad. Vengo a sacar la máscara que oculta tu miedo, permitirte la libertad de expresar tus sentimientos. Desde que soy pequeño tengo el mismo problema. Desde que soy pequeño voy asumiendo esta condena. Ser competente, valiente, capaz de todo sin vacilar. Bien afilados los dientes, sin razón siempre pelear. Desde que soy pequeño voy subiendo a los árboles. Lo hago para que ellos dejen de molestarme. Y si me lastimo no puedo parar. Se activa el mecanismo, quiero violentar. No me detengo, te quiero matar. Veo las cicatrices que esto me provoca. La competencia masculina, absurda broma. Manipula mi conciencia, me vuelve autómata. Silencia mi esencia que por los poros brotan. La broma de los chicos ejerce su poder. Tú lo reviertes también para joder. El o tú, pero alguien tiene que perder. Dominador, oprimido, o esa es la ley. En el hogar se me permite de todo. Me llevo el gaznate y puedo ser un ogro. No, mijito, usted no cocine. Eso es para las señoritas. Ya le traigo yo sus chelitas. ¿Cómo no convertirme en el clásico imbécil? Si cada vez tengo que ser más fuerte, aplicar mis prejuicios y caerle al más débil. Voy, aquí voy, me comprometo, lo masacro, puñete al ojo, que chuchas, igual yo gano. Tienes que jugar al fútbol, ya te lo he dicho. ¿Quién te pegó, chucha? ¿Quién te pegó? ¿Y por qué no le pegaste, pues, maricón? Dinámicas sociales que se asumen como normales. La violencia instalada en nuestros hogares. Nuestros sentimientos son las posibilidades para construir otras hermandades, otras realidades. Ahora soy el más guapo del barrio. Me levanto a la mejor nena del vecindario. Los panas del barrio me admiran porque le saqué la puta al gordo de la esquina. Y cuando llego a casa, directo al sofá. Si no tengo mis cervezas, juegan las cabezas. Puedo ser un histérico, un demente, levantarme a cualquier lady, ser yo el que te babuse. parlavamo prima delle campagne istituzionali contro il femminicidio, della fiaccolata che c'è stata ad Albano e di tante altre manifestazioni che ci sono state ieri, dal Campidoglio che si tinge di rosso, no? Anche la scelta del colore in qualche modo, no? Il rosso colore della passione, della violenza, e quindi no, anche un po' si gioca sempre sull'ambiguità. E rispetto a questo noi vogliamo riaffermare il fatto che la donna deve essere l'artefice, no? Delle proprie scelte, del proprio destino, che quindi ha diritto di autodeterminarsi e a salvarsi, come abbiamo detto, da sola. Quindi non abbiamo bisogno né di leggi che decidano sul nostro corpo e scelgano per noi, né di tutori che ci salvino o ci proteggano. Anche perché spesso questi stessi tutori, basti guardare l'esempio emblematico delle forze dell'ordine, sono i primi a perpetrare violenza nei confronti delle donne. L'ultima prova è stata data proprio il giorno della... appunto proprio la giornata contro la violenza sulle donne, per cui un gruppo di compagne che si erano radunate sotto al Quirinale per contestare Putin sulla posizione che c'ha il governo russo rispetto ai diritti degli omosessuali e delle lesbiche, e a questa legittima comunque, no, presa di posizione e contestazione di Putin, le forze dell'ordine hanno risposto caricando quindi un corteo di donne che si era riunito appunto lì sotto al Quirinale per contestare anche, no, la posizione che c'ha Putin su tutta la vicenda delle Pussy Riot. E quindi sono state fatte varie azioni durante la giornata, da vari attacchinaggi davanti agli ospedali che sono sempre più pieni di medici obiettori, piuttosto che ad esempio nella chiesa di San Lorenzo al Verano, in cui è stato esposto uno striscione "Sputiamo su Putin, la rivoluzione è figa". Quindi si è cercato di intervenire appunto in una giornata così istituzionale, in cui si può essere contro la violenza delle donne solo in un certo modo, che è quello appunto permesso e concesso dalle istituzioni, quindi, no, le varie fiaccolate, convegni, però poi, diciamo, se le donne vogliono dire la loro e intervenire anche pubblicamente, vengono poi caricate. Questo è successo proprio ieri sera appunto a Le Cagne Sciolte, che sono un collettivo romano che ha attaccato, diciamo, i punti, quelli che generano oppressione e violenza sulle donne, quindi le chiese piuttosto che gli ospedali dove ci sono medici obiettori, e questo è stato il modo di chiudere in bellezza la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Libres incatalogables, nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Somos indomables, libres, incatalogables. Dos cuerpos salvajes prometiendo eternidades. Hombre y mujer legalmente matrimoniales. Transfeminismo contra instituciones patriarcales. Este es el encuentro que fisura la estructura. Un vínculo afectivo que cuestiona la cultura. Somos más diversos que lo que dice el cura. Júntate conmigo y empecemos la ruptura. Abriendo el alma, me acerqué a tus pasos de manera honesta, sin querer borrarlos, porque tu existencia es la posibilidad de desarmar el género que nos quita libertad. No nos bastó el hombre o mujer, rígidas estatuas negando su placer, porque el mundo aprobado, mundo legitimado, te impone una máscara de ciudadano. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Más que un ser andrógino o una mujer trans, categorías que no logran abarcar la exuberante y mágica movilidad de este amor libre y lleno de bondad. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. Somos indomables, libres, incatalogables. Nuestras existencias superando absurdos límites. La callejización del macho en tacones. Verdaderos subversivos llamados maricones. Afectos de calle, de ambiente agreste. Duras bofetadas de pasión y muerte. Ci teniamo dunque a ribadire il fatto che il femminicidio non può essere ridotto a un problema di ordine pubblico. Noi non ci sentiamo più sicure se ci sono militari o forze dell'ordine nelle strade, anzi, diciamo, a prova di questo, oltre al corteo caricato ci sono altre testimonianze. Basti pensare agli stupri che sono avvenuti appunto a San Basilio di ragazze e donne che erano ai domiciliari, o alla violenza che spesso viene fatta appunto durante i cortei, qualsiasi tipo di corteo. Basti pensare anche, no, ai cortei Notav in Valsusa. E dunque stupri, dunque violenze, dunque difficoltà anche, no, a manifestare pacificamente, come piace a molti dire, le proprie idee. E, oppure la ricordiamo anche un'altra ragazza che è stata stuprata da un militare all'Aquila, militari mandati all'Aquila per rendere, no, più sicure le strade, per proteggere le donne, e tutto si è risolto con l'ennesimo stupro. Tracce indelebili conducono al mio margine. Spinge la lama più feroce delle lacrime. Impasto rime con le mani ruvide. Incastro giorni dopo notti insonni sotto un cielo lugubre. Come una lacrima che non ha peso. Come un rifugio sbagliato in un luogo sospeso nel vuoto. Queste sono le Shadow Beach, sempre musica autoprodotta qui su Femministenzia. Questa traccia si chiama Inverno. Sta bloccato, non sale, ma accorgo del mare in tempesta, ma non c'ho la testa per starci a lottare. C'ho una zattera, l'onda, il vento che monta, schiacciando il silenzio che cerco. Mi risveglio in un cerchio, una culla di spine pestato e di sale. Un segno che non ci dà pace, una chiave che non apre niente, non serve. Troppe verità di cui nessuno è al corrente. Faccio un altro passo falso pur di non restare inerme. Spingo controcorrente, questa processione mi vuole demente. E se guardassi fuori e fosse tutto uguale? Bianco, candido e grigio, sporco. Neve di città, neve di sobborgo. Sugli sguardi allucinati, sul sorriso d'un ubriaco morto. Stendere un velo senza peso né gloria. Cominciare da capo la storia, sarei lupo in un bosco, dimenticando tutto quello che conosco. Tranne l'istinto, la luna m'ha parlato, m'ha convinto. Non sarò cenere io, sarò vino rosso. Un brivido nel corpo, un sentiero contorto, dove corro con il branco a fianco. Stanca ad ogni sguardo stanco della rassegnazione. Definizione di persone aggrovigliate dentro ragnatele. Tesso le mie vele come un parapendio. Dove ti porto io, un posto senza Dio, senza cadere. Non puoi capire quanto sangue scorre nelle vene. L'insofferenza ci trascina dove vuole. Spazi aperti per disperdere parole inutili, gli scrupoli a chi servono, qua ci mentono. Il senso di colpa, l'espiazione, la vergogna indotta. La menzogna più balorda che non bevo da un calice. Un carico di favole che schiaccia. La pace eterna in cambio di un'eterna maschera sulla faccia. E se guardassi fuori e fosse tutto uguale? Bianco, candido e grigio, sporco. Neve di città, neve di sobborgo. Sugli sguardi allucinati, sul sorriso d'un ubriaco morto. Stendere un velo senza peso né gloria. Cominciare da capo la storia, sarei il lupo in un bosco, dimenticando tutto quello che conosco. Torri nella mia vista l'alba del mattino sulla nebbia. Un'atmosfera strana e tutto grigio e tutto morto. Davanti ombre creano strane figure. Dietro il lugubre paesaggio, specchio del mio animo, ostaggio del mio essere, dei miei pensieri. Ciò che ho visto e ciò che ho fatto, ogni mossa ha cambiato il mio stato. Mentre io guardo le gocce bagnare la strada, esco dei miei pensieri. In questo giorno nero penso al peggio del sole, neanche un raggio. E quieto in una calma che adesso sembra un miraggio. Follia, panico senza significato, agguata alla coscienza. non posso porre resistenza. Non c'è via d'uscita, una salita è male puro. Quando il nero dentro il cranio spinge spalle contro il muro. Non c'è via d'uscita, una salita è male puro. Quando il nero dentro il cranio spinge spalle contro il muro. Pare, lacrime che sbarrati, guardo fuori giorni neri senza il sole, il tempo dell'eclisse. I cinque della mano aprono un parco sull'inferno. Il male eterno giunge al mio interno in questo giorno. Sofferenza pura, non passa la paura. Impazzisco in quanto vivo come dentro ad una bara. Sofferenza pura, non passa la paura. Impazzisco in quanto vivo come dentro ad una bara. Non c'è via d'uscita, è una salita, è male puro. Quando il nero dentro il cranio spinge spalle contro il muro. Non c'è via d'uscita, è una salita, è male puro. Quando il nero dentro il cranio spinge spalle contro il muro. Tracce indelebili conducono al mio margine. Spinge la lama più feroce delle lacrime. Impasto rime con le mani ruvide. Incastro giorni dopo notti insonni sotto un cielo lugubre. Tracce indelebili conducono al mio margine. Spinge la lama più feroce delle lacrime. Impasto rime con le mani ruvide. Incastro giorni dopo notti insonni sotto un cielo lugubre. Questo è già doppiato, non me la devi fare. Basta. Fumo un'altra sigaretta, tanto non c'ho fretta. Tanto per cambiare c'ho la gola secca e la voce roca. Spero domani piova, troppa luce ma nega. Voglio restare sola. Come rispondono dunque le istituzioni a questa richiesta di sicurezza e di non violenza appunto sulle donne? Rispondono appunto con la repressione, tant'è che nel decreto appunto sul femminicidio sono previste tutta una serie di norme, di pene più aspre che riguardano i violenti appunto, ma che poi vanno a toccare anche i cosiddetti, come li chiamano loro, punti sensibili, discariche, inceneritori, questione dell'alta velocità. Quindi attraverso il decreto legge sul femminicidio si fa passare in realtà la repressione in generale su chi contesta, ecco, su chi in qualche modo non lotta sui propri territori per autodeterminarsi contro le devastazioni ambientali, appunto come la Val di Susa. Quindi in questo pacchetto ci sono tutta una serie di norme che niente hanno a che vedere in realtà col femminicidio, che viene usato quindi ulteriormente in modo strumentale per reprimere il dissenso, qualsiasi tipo di dissenso. Questo è il modo con cui rispondono le istituzioni a una violenza che, come abbiamo detto prima, riguarda un po' tutti gli aspetti anche, no, della vita delle donne. Una violenza che si attua, no, quando si chiede ad esempio l'interruzione volontaria di gravidanza e si va in un ospedale in cui tutti i medici in servizio sono medici obiettori. Una violenza che c'è e che viene perpetrata quando magari si va, no, da una guardia medica o presso un pronto soccorso a chiedere la pillola del giorno dopo. Spesso non viene concessa, vengono fatte mille storie, mille problemi, insomma si cerca in tutti i modi di dissuadere la donna a compiere un atto del genere come se fosse un aborto, quando in realtà si tratta di semplice contraccezione d'emergenza. Una violenza che c'è, diciamo, no, anche nei mass media, anche quando, no, i giornalisti, le TV parlano di donne uccise da un uomo passionale in qualche modo, no? Ancora c'è riferimento all'omicidio passionale, che non vuol dire proprio un cavolo, no? Stiamo parlando di cose che dovrebbero essere culturalmente in qualche modo superate, ma che spesso non le sono. Violenza è quando chiudi i centri violenza, quando chiudi i consultori, che sono insomma tra quei servizi territoriali che in qualche modo possono dare ascolto, no, alle donne, proteggere la salute delle donne, farle sentire comunque, no, accolte, tutelate, capite? Violenza che c'è quando si va a denunciare, no, magari un abuso, un maltrattamento dentro una caserma, no, e spesso la reazione della guardia di turno insomma è ironica o magari tende, no, ad alleggerire, minimizzare la questione, insomma anche questa è violenza. Solo un pensiero inutile, no, che non amo sentirmi rompi così, mi consumi così, mi consolo nel pit. Lasciami andar via, lasciami andar via. Così mi confondi, qui non ci torni. Sei solo un pensiero inutile, solo un pensiero inutile. Dalle vostre forze armate pestato fino all'ultimo respiro esalato. E voi, caro sindacato, vi sentite incaricato di proteggere chi ha commesso questo reato, chi di questo crimine si è insanguinato. Un crimine che non può essere insabbiato. Che coraggio andare sotto quel palazzo dove c'è una madre che piange per il suo ragazzo. Metto accanto a ogni morto di Stato, ad ogni innocente che avete massacrato. Mi metto accanto a chi vi ha denunciato, tanto sappiamo non verrai processato. Queste sono due nostre amiche, Eleonora e Alice. Dai regà, più autoproduzione del così se muore. In una caserma scura, scena di violenza pura. Ma nessuno si è preso cura di salvare Giuseppe Uva, quella che può essere stata una vera e propria tortura. E la sorella invece di avere giustizia ha paura, perché non ha nessuna tutela dalla procura. Il PM abbatte la minaccia, spesso dal tribunale la caccia, perché ha paura che la verità si affaccia, cambia ogni tipo di traccia per nascondere l'assassino e la sua faccia. La polizia ormai ha dimostrato, se loro uccidono mica è reato. Dimmi quanti anni vi hanno dato, quale pena avete scontato. Tanti altri ce ne sono che hai mandato all'obitorio, Carlo Giuliani, Stefano Cucchi, Aldo Pianzino. Tutti hanno patito il martirio, la lista è lunga, il foglio non basta. Questa è una denuncia contro la guardia che ammazza, che nessuno rintraccia, le indagini cambiano senso di marcia. I miei familiari non si arrendono, vogliono la faccia di chi ha ridotto un'altra vita, una carta straccia. mi metto accanto a chi vi ha contestato, è stato di polizia e non polizia di Stato. Non mi dispiace, non abbiamo dimenticato chi senza colpa è stato pestato. Io, Castelli Romani, io, Radio Default. Dai Alice, su Deliro Freestyle. Prove tecniche qui su Radio Default, queste le nostre amiche, eccole, eccole, ripartono, dai. Questa è la nostra amica giapponese, come si evince dal testo. E ora Shadow Beach, cavalco il buio. Quindi a mai più sole rispondiamo con cavalco il buio. Che odio, in calma apparente cammino per non pensare a niente, il paesaggio è indifferente, sento solo le solite palpabili assenze, le distanze che il sangue non riempie sono vuoti nella mente, io riempio con rumore il delirio del presente, un assaggio di dolore come sempre mi riporta sulla via maestra, una nuova storta nella testa, mi risveglio al tempo che mi resta, non c'è sicurezza, basta un gesto, scoppia l'ultima tempesta, un vulcano sempre attivo sotto le ceneri di un gioco malato, me lo faccio mio alleato, sono complice dell'ultimo respiro, esalo rime per tenerlo vivo, non provo più paura alcuna, se non per l'ignoranza bruta travestita da cultura, il sotterraneo è la mia tana, rifugio preferito di questa puttana che riprende fiato, emergo in superficie con un carico da rovesciare senza filo logico, provo a dare sfogo a sti polmoni pieni delle frustrazioni che ci ficcate dentro. Non vogliamo leggi sui nostri corpi e smascheriamo la lotta con cui il sistema vorrebbe combattere la violenza contro le donne, perché è una lotta funzionale all'introduzione di leggi sicuritarie, razziste, di controllo sociale e di militarizzazione dei nostri territori. Noi rivendichiamo il diritto ad autodeterminarci, a difenderci da sole, a non delegare a nessuno, tutore o che sia, o vigilante che sia, o padre o padrone, la nostra libertà. Noi rifiutiamo il controllo. Per noi combattere la violenza sulle donne vuol dire battersi tutti i giorni contro il sessismo imperante della società in cui viviamo. Significa fare in modo che i consultori e i centri antiviolenza siano sostenuti ed ampliati. Significa rivendicare il diritto a scegliere sul nostro corpo e a non delegare a nessuno la nostra sicurezza. Non siamo vittime, non siamo fragili e non abbiamo bisogno di tutori. Nessuna legge sui nostri corpi, rifiutiamo il controllo. Shadow bitch, cause I'm princess or misfits. Here I come to show you how to deal with mighty bits. Maybe vain and insane, you don't like it, try and fix me. I find my own pace, kicking down the main. Then I keep the place unsafe. As I embrace a shiny cross of faith into anything that raise my energy. Pumping up the level on the base, so you can truly taste the feel. This scarred face of truth and justice. Only words to swallow like a nasty pill. Subliminal manipulation of reality. Obscure is the struggle, ancient as humanity is. What is it you need, for real? You sure you know the rules of the game we're playing here? Think twice, my little dear. Who's to take the blame? Who's to live in suit and aim? And learning how to pull from a book, deciding who's your enemy, then shoot at your brother like a fool. Tiny toy soldier, that's your own blood, turning into gold in the hands of mentally disorder, egotistic self-destroyer. Far army blues, squashing people down into square borders. They count cash, count days, we count centuries. And we come to deliver them serious injuries. Danger in their engines, operating the rage on the stage. And show what the real execution is. I'm an evolutionist and a revolutionary activist. The illusions they use and abuse the politics. And apologizing public interventions that they kill the innocent. But my own investigation shows your toes are blood red like your Ferrari. Cause you pulled the trigger, then you stepped on the body. That's the way you party, but I'm feeling under pressure. I got myself a gun and I'll be your body crasher. Aggressive against aggression, violent against violence. Your machine is fucking noisy and I need a moment of silence. Science mixed with iron on lost hidden islands. Training criminals and name them World Peace Alliance. Trading weapons in boxes with food supply. And for your surprise, they control it better if they don't legalize it. More I think about things, more things I have to think about. E addentrandoci un minimo nel decreto legge da rendere più incisivi gli strumenti della repressione penale dei fenomeni di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e di atti persecutori. Quindi vengono inasprite le pene quando il delitto di maltrattamenti in famiglia è perpetrato presenza di anni 18. Il delitto di violenza sessuale è consumato ai danni di donne in stato in gravidanza, il fatto è consumato ai danni del coniuge, anche divorziato, separato o dal partner. Un secondo gruppo di interventi riguarda il delitto di stalking. Viene ampliato il raggio d'azione delle situazioni aggravanti che vengono estese anche ai fatti commessi dal coniuge, pure in costanza del vincolo matrimoniale, nonché a quelli perpetrati da chiunque con strumenti informatici o telematici. Viene prevista l'irrevocabilità della querela per il delitto di atti persecutori nei casi di gravi minacce ripetute. Sono previste poi una serie di norme riguardanti maltrattamenti in famiglia. Viene assicurata una costante informazione alle parti offese in ordine allo svolgimento del procedimento e varie. Poi il decreto legge prevede un provvedimento riguardanti la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Misure urgenti volte ad innalzare il livello di sicurezza, il contrasto alle rapine, una maggiore riflessione della flessibilità dell'impegno del contingente di 1.250.000 appartenenti alle forze armate nel controllo del territorio, un più efficace contrasto al cosiddetto furto d'identità digitale. Inoltre, vogliamo dire che ci sono 10 milioni di euro previsti per appunto per questo decreto che per prevenire, educare e formare e piano elaborato dal Ministro per le Pari Opportunità dovrà tra l'altro promuovere il recupero dei maltrattamenti e sensibilizzare i media, adottare codici di autogovernamentazione per un'informazione che rispetti le donne. Ogni anno sarà presentata una relazione in Parlamento, finanziamenti in arrivo anche per i centri antiviolenza e le case rifugio. Nel 2013 10 milioni di euro, 7 nel 2014 altri 10 all'anno a partire dal 2015. Appunto cioè questo decreto parla di tutto tranne come affrontare il femminicidio, perché tolto un lieve preambolo rispetto alle donne che subiscono violenza, quindi incrementare le pene per gli aggressori, e poi a un certo punto si arriva a parlare di misure urgenti con 1.250.000 uomini delle forze dell'ordine, quindi più forze dell'ordine sul territorio, e ci sono appunto delle incongruenze rispetto a quello che dovrebbe essere un decreto sul femminicidio. Questi 10 milioni di euro appunto previsti per sostenere il femminicidio dovrebbero andare ai consultori, alle case delle donne, mentre questo non succede perché i consultori continuano a chiudere, quindi servizi non supportati dallo Stato, ma lo Stato, ripetiamo per l'ennesima volta, supporta appunto una punizione, delle pene non altro. Ma come si sa anders gedacht und fand das, was um mich rum passiert, so unlogisch. Ich wusste, was ich denke, das begreifen andere nie. Deshalb zog und zieht es mich immer noch oft in meine Fantasie. Ich war schon immer komisch und ich wusste nicht wieso. Und ich dachte, ich bin sogar zum mich anpassen zu doof. Und ich wusste, ich musste mein Komischsein so gut es geht verstecken, damit die Geier nicht meine wirkliche Persönlichkeit entdecken, weil sie fressen und zerfetzen. Statt das Komischsein zu schätzen, versuchen sie sich ein Leben lang in eine passende Form zu quetschen. Überflutung, mir wird alles zu bunt, ich werd von Eindrücken erdrückt und fürchte mich vor meiner Zukunft. Keine Ruhe, keine Ausgeglichenheit, ich bin nachts zu nervös, um zu schlafen und tagsüber zu müde, um einen wachen Kopf zu haben. Meine Antworten verzögern sich, wenn Leute mich was fragen. Ich spüre Desinteresse bei Dingen, die sonst für mich Bedeutung haben. Ich suche nur und finde nichts, die Bedingungen sind hinderlich. Es geht alles um Äußerliches, aber das spüre ich noch innerlich. Ja, Etikette wegen, weiß man nicht zu benehmen. Auch wenn dann manche Handlungen nicht für das Denken stehen. Es heißt, es ist das Leben, Kompromisse einzugehen. Aber wenn alles Kompromiss ist, ist kein selbstbestimmtes Leben. Ey, verdammt, ich halt den Aufgaben des Alltags nicht mehr stand. Ich bin angespannt und ausgebrannt und eure Fressen penetrant. Ich war schon immer komisch, aber ihr seid ignorant. Und ich weiß nicht, was noch kommen soll und ich bin auch nicht gespannt. Abgrenzen, aber es gibt zu viele Sachen, die mich ablenken, mich irritieren und ich komm nicht mehr zum Nachdenken. Und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Wenn alles durcheinander geht, dann hab ich Angst, mich zu verlieren. Erledigung, Überforderung, bis immer nur Erwartung. Allgemeine Überforderung, komplexe Selbstverarschung. Wenn keiner mit so etwas spricht gegen Wenn und wird von allen Seiten vollgelabert, dann lieb ich Rap, denn du kannst mich nicht unterbrechen mit deinem scheiß Aber. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und das liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und das liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Keiner redet außer ich, Schnauze halten, hört ihr mich? Ich war schon immer komisch und es liegt an meinem gestörten Ich. Questa è Lena Stock Factor, e la traccia è Komish, credo sia una cantante di origine russa o giù di lì, non vorrei fare semplificazioni. Parliamo ancora del decreto legge sul femminicidio, evidenziando un aspetto per noi molto importante che è legato appunto culturalmente, socialmente e economicamente alla questione del femminicidio, che è appunto quella di un welfare, di diritti sociali che garantiscano effettivamente alla donna di uscire appunto, no, dalla violenza. Quindi la casa, il reddito, E tutta quella, insomma, tutta una serie di misure, i consultori, dicevamo prima, che accompagnino anche, no, la donna nel suo percorso, che comincia magari, no, in un centro antiviolenza o in un consultorio. Poi c'è bisogno anche ovviamente di mezzi anche economici, e quindi, come dicevamo prima, forse i soldi non andrebbero spesi a forze dell'ordine, ma a diritti. Claudia, vuoi dire due cose su questa questione? Sì, in conclusione del disegno di legge, che porta al suo interno una serie di elementi positivi, che vorrebbe mettere in primo piano il tema della violenza di genere, ma che, inserito in un insieme di tagli al welfare, lo rendono in buona parte obsoleto, perché nei fatti le politiche del governo stanno togliendo alle donne tutti quei diritti che le rendono libere di scegliere. Risulta perciò un ridicolo specchietto per le allodole, che da una parte distoglie l'attenzione dai tagli drastici al welfare, dall'altra premette di far passare in sordina politiche securitarie e repressive, che rendono ancora più difficile e rischioso lottare contro decisioni prese dall'alto, che riempiono di soldi le tasche di pochi e devastano i territori. Ci credono forse tutte cieche e sorde, noi per fortuna non lo siamo, purtroppo per loro la mossa non gli è riuscita. Serve un welfare di qualità per contrastare la violenza di genere. Tutti i tagli alla cultura, all'educazione e ai servizi sono complici dei femminicidi, e non basta un DDL per fermare la lotta in Valsusa. Queste sono le Poison Girls, la traccia si chiama Persons Unknown, qui su Femministenzi anche, diciamo, la pronuncia delle lingue straniere come al solito dà il meglio di sé, e questa traccia ci fa pensare un po', no, alla polpetta avvelenata che ci stanno propinando con questo decreto legge sul femminicidio, ma noi, come dice Claudia, non ci siamo cadute. Non ce l'hanno fatta sotto il naso. Dirty tricks. Ma Femministenzia non finisce qua. Claudia adesso farà un saluto perché prima abbiamo sbagliato ad azionare i microfoni. Quindi puoi ripetere quello che hai detto 2 minuti fa? Grazie. Vorrei ringraziare Silvietta di avermi dato della svergognata. Spero che la trasmissione le sia piaciuta e sia piaciuta anche agli altri e alle altre che ci stanno seguendo da casa. Ora vi lasciamo con un'altra traccia e ci vediamo, ci sentiamo alla prossima trasmissione. Mi raccomando, alla prossima. Terminiamo con la prossima traccia, oltre la quale ovviamente ci sarà la sigla della trasmissione Femministenzia. È una traccia delle Pussy Riot, Punk Prayer, che è un po', diciamo, in tema di scottante attualità, un po' perché è stata pubblicata da poco una lettera di una delle componenti delle Pussy Riot che si trova a scontare la sua pena per oltraggio alla religione, perché questo è il reato che viene contestato alle Pussy Riot, in un comodo e accogliente gulag, da non confondersi col gulash, ovviamente, che si tratta di tutt'altra cosa. Dicevamo, il comodo e confortevole gulag di Putin. Quindi facciamo una dedica speciale a Putin. Siamo contente che sei qui in Italia, che sei andato a cena col Presidente della Repubblica, col Presidente del Consiglio. Forse la polpetta avvelenata toccherà a te. Attenzione, occhio. Чорний ряд, золоті вагони, все прихожані ползуть на поклони, прийдуть свободи на небеса. І пройдуть, Сибір, Канада! Глибоко губи, склони сідай, відьом протестуючих знову конвой, саме з дітей, що мене оскорби. Жителі мустра, жайте любі! Ricordiamo, solo musica autoprodotta qui su Femministenzia. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. E ricordiamo che la trasmissione c'è tutti i secondi e quarti martedì del mese, che la trasmissione è aperta al contributo di tutte. E noi, come sapete, ci riuniamo sempre il martedì pomeriggio in via della Costarella 19. Veniteci a trovare, venite anche a visionare la nostra interessantissima sezione di genere della biblioteca Assata Shakur e ci vediamo fra 2 martedì. I padroni di casa sempre più ingordi, fami i buffi con carta girone per potersi pagare la pigione. Siamo stressati, accatastati, compressi, sfruttati, sottopagati. I tempi di mio nonno mi sa che sono tornati. Ma almeno mio nonno c'aveva l'osteria, se beveva la foglietta il dolore andava via. I sordi non ce l'aveva, ma stava in compagnia. Dopo per San Vittorio poi c'avevano un talento, quando che il vino era buono, si sonava a cor contento. Meglio buttarsi a fiume tra la che fa sta vita qua.